Componimento trentesimo dei canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Sopra un basso rilievo antico sepolcrale, dove una giovane morta è rappresentata in atto di partire, accomiatandosi dai suoi. Dove vai? Chi ti chiama, lunge dai cari tuoi, bellissima donzella? Sola, peregrinando, il patrio tetto sì per tempo abbandoni? A queste soglie tornerai tu? Farai tu lieti un giorno questi ch'oggi ti son piangendo intorno? Asciutto il ciglio ed animosa in atto, ma pur mesta sei tu. Grata la via, o dispiacevol sia, tristo il ricetto a cui muovi, o giocondo, da quel tuo grave aspetto, mal si indovina. Ahi, ahi, né già potria fermare io stesso in me, né forse al mondo s'intese ancor, se in disfavore al cielo, se cara esser nomata, se misera tu debbi, o fortunata. Morte ti chiama, al cominciar del giorno, l'ultimo istante. Al nido onde ti parti, non tornerai. L'aspetto dei tuoi dolci parenti lasci per sempre. Il loco a cui muovi è sotterra. Ivi fia ad ogni tempo il tuo soggiorno. Forse beata sei, ma pur chi mira, seco pensando al tuo destin, sospira. Mai non veder la luce era, credo, il miglior, ma nata al tempo che reina bellezza si dispiega nelle membra e nel volto ed incomincia il mondo verso lei di lontano ad atterrarsi. In sul fiorir d'ogni speranza, e molto prima che incontro alla festosa fronte i lugubri suoi lampi, il ver baleni, come vapore in nuvoletta accolto, sotto forme fugaci all'orizzonte, dileguarsi così quasi non sorta, e cangiar con gli oscuri silenzi della tomba i dì futuri. Questo, se all'intelletto appar felice, invade d'alta pietade ai più costanti il petto. Madre temuta e pianta dal nascer già dell'animal famiglia, natura illaudabil maraviglia, che per uccider partorisci e nutri. Se danno è del mortale immaturo perir, come il consenti in quei capi innocenti? Seben, perché funesta, perché sovra ogni male, a chi si parte, a chi rimane in vita, inconsolabil fai tal dipartita. Misera ovunque miri, misera onde si volga, ove ricorra questa sensibil prole. Piacqueti che delusa fosse ancor dalla vita la speme giovanile, piena d'affanni l'onda degli anni, ai mali unico schermo la morte, e questa inevitabil segno, questa immutata legge ponesti all'uman corso. Ahi, perché dopo le travagliose strade almen la meta non ci prescriver lieta, anzi colei che per certo futura portian sempre vivendo innanzi all'alma, colei che i nostri danni ebber solo conforto, velardi neri panni cinger d'ombra sì trista e spaventoso in vista, più d'ogni flutto dimostrarci il porto. Già, se sventura è questo, morir che tu destini a tutti noi che senza colpa, ignari né volontari al vivere abbandoni, certo a chi more invidiabil sorte, a colui che la morte sente dei cari suoi. Che se nel vero, com'io per fermo estimo, il vivere è sventura, grazia il morir. Chi però mai potrebbe, quel che pur si dovrebbe, desiar de suoi cari il giorno estremo, per dover egli scemo rimaner di se stesso? Veder d'in sulla soglia levar via la diletta persona con chi passato avrà molt'anni insieme e dire a quella addio senz'altra speme di riscontrarla ancora per la mondana via. Poi solitario, abbandonato in terra, guardando attorno, all'ore, ai lochi usati, a rimemorar la scorsa compagnia. Come, ahi, come, o natura, il cor ti soffre di strappar dalle braccia all'amico l'amico, al fratello il fratello, la prole al genitore, all'amante l'amore, e l'uno estinto, l'altro in vita serbar. Come potesti far necessario in noi tanto dolor che sopravviva amando al mortale il mortal? Ma da natura altro negli atti suoi che nostro male o nostro ben si cura. Fine del componimento trentesimo.